È rispettoso fare un'imitazione di una persona non più tra noi? Ma era una persona, credo, molto ironica e spiritosa, per cui insomma non penso che qualcuno se ne abbia a male. Ma però, un contemporaneo, insomma, qualcuno, per carità, anche Agnelli è un contemporaneo, insomma, un vivente. Albertini, chi è il suo preferito? Vivente direi non ne faccio nessuno, vivente no. Ho un repertorio datato a quando facevo lo studente all'università, eccetera. Poi mi sono un po' fermato lì. Vabbè, una trentina di secondi su Agnelli, però li sentiamo volentieri. E con tutto il rispetto dovuto alla famiglia Agnelli, per carità, l'imitazione non vuole essere un'offesa, però insomma a questo punto non si può sottrarre. Caro Cruciani, la sua trasmissione la trovo perfetta. Ha un eloquio davvero originale. Se fosse disponibile la chiamerei a fare un po' di pubbliche redazioni per la Fiat. In questi frangenti ne abbiamo bisogno. E sarebbe valorizzata la sua indubbia professionalità. Come dicevo, la qualità dei miei collaboratori è il mio orgoglio. Senta, avvocato, ma l'Italia di oggi come la vede lei? Quest'Italia, insomma, che tutti dicono essere in grande difficoltà rispetto agli altri paesi, lei che ormai ci vede dall'alto, diciamo. Ho già avuto modo di dire che quest'Italia assomiglia più alla Repubblica delle Banane che alla Repubblica costituita dopo la Resistenza e fondata su Casa Savoia. Senta, un'ultimissima cosa prima di lasciarla ai suoi impegni, che immagino sono anche lì piuttosto densi. Ma Marchionne recentemente, che è un po' il suo erede, anche se poi fa un altro mestiere rispetto a lei, era il padrone, Marchionne è comunque sempre una... ha detto insomma che hanno liberato le gabbie, no, in quest'Italia. Lei è d'accordo? Un'immagine suggestiva, ma che rende bene l'idea di quello che sta accadendo. E beh, e con questo chiudiamo il collegamento. Zanzara parti, via. Vabbè, insomma, abbiamo giocato.